Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io sono il candidato numero 134 e quello che stanno esaminando in questo momento è il numero 35. Sono nei guai. Sono nei guai perché ora mi sono pentito di essere qui. Perché non posso andarmene, visto che Chiara sta arrivando. E soprattutto perché ho assolutamente bisogno di un bagno. Mi chiamo Matteo Caccia, ho 37 anni, vengo da un paese in provincia di Novara che si chiama Romentino, ma vivo a Milano. Cosa faccio? Lavoro in radio. Basta? Allora, non siamo completamente impazziti, siamo un po' degli imbecilli, ma quello si sa, ma non siamo completamente impazziti e soprattutto non siamo a corto di racconti. I racconti continuano ad arrivare e anzi Margherita Hina ce li sta stampando, tra l'altro deforestizzando praticamente tutta la pianura padana per stamparceli, ma io e Bonini ce li porteremo via durante l'estate per leggerli e per leggerli soprattutto. No, scusa, non è un gioco di parole che ho detto male, mi sembrava un gioco divertente. Non lo era invece. La puntata di oggi è semplicemente un punto rosso su una mappa, come tutti quelli che abbiamo messo a partire da settembre, che sono 215, e li vedete tutti sulla mappa che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È però un punto della mappa che, come dire, chiude il cerchio, perché abbiamo cominciato il 5 di settembre con un racconto che parlava di una cosa e chiudiamo oggi, 29 giugno 2012, con un racconto che parla di una cosa abbastanza simile. Come se nella chiusura di questo cerchio ci fossero contenuti tutti quanti gli altri punti, tutte quante le altre storie e tutte quante le altre persone che hanno partecipato. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it, è più che altro una puntata di saluti questa, quella di oggi, è una puntata che rilancia anche, diciamo, a un saluto finale che avverrà questa notte in una puntata speciale che sarà in onda solo in diretta streaming dal sito di Radio 24, quindi non accendete la... Cioè, accendetela pure la radio, ma non aspettate di sentire uscire la voce da lì, la voce uscirà solo dalle casse del vostro computer collegandovi sul sito della radio, che è sempre radio24.it, in una puntata appunto di saluti finale, notturna, cercando di rinfrescarsi un po', in cui racconto un'altra storia. Non sono le storie che sono arrivate, non sono quelle che andranno in onda il prossimo anno, è proprio un'altra storia che è nata qualche tempo fa e che ho voglia di raccontarvi. Ne approfitto questa sera per salutarvi. Radio24.it. Tra le storie invece che sono arrivate, diciamo, ho preso al volo, prima di entrare in studio, questa mappazza di fogli che Margherita mi ha stampato, che sono tutte le storie che sono arrivate. Tra l'altro, Margherita, mi dicevi fino ad aprile, fino a maggio, fino a metà marzo, quindi devi stamparcele fino a quelle che sono arrivate ieri, praticamente oggi, quelle che continuano ad arrivare. Allora, alcuni esempi, ad esempio Alessandro Romagnolo di Schio da Vicenza, che scrive un'altra storia della mia vita, eccola qui, a presto spero. Leggiamo qualche riga delle storie, ma ci abbiamo anche una, guardalo lì Paolino, guarda che roba, è veloce. Oggi è San Pietro e Paolo, oggi mia madre mi ha mandato un messaggio che diceva: oggi è San Pietro e Paolo, fa gli auguri a Paolino. Ma tra l'altro oggi è San Pietro e Paolo, quindi a Roma è festa, giusto? Bene, ma noi siamo a Milano, vai. Sì, sì, certo, è tutto andato per il meglio, a parte il dito, mi disse il signor Schmidt, sorridendo e ammiccando. La mia comprensione del tedesco era buona ed ero abbastanza sicuro di aver capito bene. E poi la parola dito, finger, è la stessa per il tedesco e per l'inglese, e quindi dubbi, in teoria, non ce n'erano. Ma col tedesco mi affidavo in realtà molto al contesto, e quello proprio non tornava. Questa è una delle storie, ce n'è un'altra, ne prendo proprio a caso, pescando dalle fotocopie che mi ha stampato Margherita. Mi chiamo Paolo Casero, o Casero, 36 anni, di Canegrate, provincia di Milano. Questa è la mia storia. Ero un soccorritore della Croce Rossa e svolgevo quell'attività durante il servizio civile. Mi piaceva molto. Per 2 anni ero stato volontario per lo stesso ente e avevo acquisito una certa esperienza, così che ero sempre messo sui casi di emergenza, come secondo al capo più esperto. Molte erano le cose brutte che si vedevano e che soprattutto si vivevano. Le disgrazie altrui diventavano anche le tue per alcuni concitati momenti e poi in genere te le dimenticavi. A volte no. Qualche volta ti rimanevano addosso e non andavano più via. E ancora, ciao, mi chiamo Mario, 33 anni, convivo da 9 anni, un bambino di 18 mesi, sono cagliaritana ma vivo in Emilia Romagna, spero che il racconto vi piaccia. E ancora, racconto, qua niente, Amedeo Verdù, dice solo il nome, settembre, ore 15, 8 settembre, Da tempo, questo se lo racconto, voglio qualche mail proprio. Eccola qua. Dimitri Zanella. Ho tempo ancora un po'? Ciao. Bravo Paolino. Bravo. Va benissimo, vai. Aspetta, me le fai ripartire ancora? Faceva davvero caldo. Da quando ho memoria, luglio è sempre stato il mese più caldo dell'estate. Ma l'altro ieri, primo del mese, ho davvero sofferto. Giornata stressante in ufficio, riunione con un difficile cliente la mattina e un evento di formazione per progettisti durante il pomeriggio. Quanta pazienza e quanto caldo. Finalmente, la palla infuocata ad ovest mi ricorda che la giornata è al termine e in poco più di un'ora sarò a casa. Questi sono solo gli incipiti di alcuni dei racconti e la cosa incredibile è che sembrano tutti interessanti a partire. In realtà, come dice Tiziano, lo sono tutti in qualche modo, giusto? Niente, Bonini ormai non ce la fa più. È arrivato a questo fine mese di giugno che è proprio quello che rimane di Tiziano Bonini. Ma ce la possiamo fare, Tiziano. Oggi chiudiamo, stasera facciamo l'ultimo piccolo evento, l'ultimo esperimento in diretta sul sito e poi abbiamo chiuso. Vi ricordo, continuate a mandare i vostri racconti. Noi li raccogliamo per tutta l'estate, ce li leggiamo e l'anno prossimo andiamo avanti con una nuova stagione. Voi siete qui, @radio24.it. Con oggi chiudiamo la diretta, il mese di luglio è tutto il meglio di... Ma questa è ufficialmente l'ultima storia. È il primo provino della mia vita. Anzi no, è il secondo. Ma il primo non è stato esattamente un provino. Quando ho partecipato alle selezioni per entrare al corso di teatro del liceo scientifico, ho portato come poesia Soldati. Si sta come le foglie sugli alberi d'autunno. E mi sa che l'ho pure sbagliata. Ma quella non era una vera selezione, era più che altro un modo per l'insegnante per capire se c'erano abbastanza iscritti per mettere in piedi un corso come quello. E infatti alla fine ci prese tutti. No, questo è un provino vero e proprio, con tanti candidati e pochi selezionati, di quelli che sembra possano cambiarti la vita. Allora, il provino era un'audizione per entrare in una delle tre scuole professionali di recitazione che c'erano a Milano all'epoca. La scuola era l'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Era un provino a cui si iscrivevano più o meno 200 persone e alla fine ne venivano prese tra i 10 e i 12, che diventavano poi gli allievi dell'Accademia. Si doveva portare semplicemente una poesia, un dialogo e un brano di lettura. Arrivo alla scuola di teatro presto, molto presto, con un anticipo di almeno 2 ore. La scuola è nel centro di Milano, proprio di fianco al Teatro alla Scala, in una via che porta lo stesso nome della scuola. E questa cosa mi impressiona subito così tanto che mi sento già male. Per dare il nome ad una via di una grande città devi per forza avere fatto cose importanti, o essere una cosa importante. Sono da solo perché Chiara arriverà più tardi. Chiara è proprio l'attrice che mi ha tenuto il corso di teatro al liceo. Mi ha aiutato a preparare il provino e ora mi farà da spalla nel dialogo che c'era da preparare per la selezione. Io ho scelto un pezzo da La proposta di matrimonio di Anton Chekhov. La scuola è un insieme di a metà tra un tempio e un museo del teatro. È settembre, è il 1994 e fa un gran caldo. Dentro la scuola però si gela, nonostante i drappi di velluto rosso e quadri antichi appesi dappertutto. Io sono il candidato numero 134 e quello che stanno esaminando in questo momento è il 35. E sono nei guai. Sono nei guai perché ora mi sono pentito di essere qui. Perché non posso andarmene visto che Chiara sta arrivando e soprattutto ho assolutamente bisogno di un bagno. C'è niente da fare, questo è il mio modo per gestire l'emozione, o forse per non gestire l'emozione. A qualcuno sudano le mani, altri inciampano nelle parole, io ho un estremo bisogno di andare in bagno. Inizio a chiedere in giro se qualcuno conosce un bar, un ristorante o un posto in centro a Milano dove scroccare un bagno in cambio di un bicchiere d'acqua, ma sono tutti di fuori della città. Un ragazzo vestito da antico romano in toga mi dice che lui è andato al bagno della scuola. Io per un attimo sono in dubbio se credere a un tizio vestito come Cicerone, poi però mi dico che se non credo a Cicerone a chi devo credere. Quindi busso alla porta della segreteria. Un signore elegante come fosse in banca mi dice che il bagno è occupato, che devo aspettare. Io allora aspetto, ma più aspetto e meno riesco a farlo. Intanto i candidati entrano ed escono come formiche in una buca e siamo al numero 78. Ne mancano ancora la metà. Il bagno però non si libera e io mi sento come un vulcano in eruzione. Intanto arriva Chiara, È vestita come un clown impazzito, mentre intorno a noi, a parte il senatore romano, sono tutti in lupetto nero. Mi dice di cambiarmi, che dobbiamo provare il dialogo insieme. Io nello zaino ho le bretelle verdi, la camicia fucsia e i pantaloni dell'orto di mio nonno e mi vergogno da morire. Ora vorrei solo essere nel bagno di casa mia a compilare la domanda di iscrizione di ingegneria civile. E poi, quando tutto sembra irrecuperabile, si apre la porta del teatro, quello dove stanno effettuando i provini, e il segretario chiama il mio nome. Io non capisco come sia possibile che sia passato così tanto tempo e mi accorgo solo adesso che le commissioni sono due, non una, e quindi vanno molto più veloci di quanto pensassi. Mi cambio al volo, sono sudato, mi scappa tutto quello che mi può scappare e non mi ricordo più quello che avevo imparato a memoria. Chiara mi dà una sberla sulla testa e mi dice: vai! E spacca tutto. Ma la commissione era molto severa, nel senso che erano tutti chiaramente gli insegnanti della scuola, l'insegnante di dizione, di recitazione, quello di storia del teatro e altri, che erano dietro a un bancone in questo piccolo teatrino e ti osservavano, come l'idea che si ha dell'audizione quando si pensa a un'audizione, insomma. L'inizio però non fu dei migliori, perché appena staccai la poesia, l'insegnante di dizione, Teresita Fabris, mi disse: lei ha dei problemi mentre parla, sputa, c'è qualcosa che non va. E io le dissi: vengo qui apposta per correggerlo. E lei mi rispose: bisogna vedere se si può correggere, vada pure avanti. Che poi io questa cosa dello spaccatutto non l'ho mai capita. Cioè, uno non può fare quello che deve fare senza per forza spaccare tutto. Ma vabbè, alla fine ne esco stordito. Dopo 30 secondi dall'inizio, l'insegnante mi ha fermato dicendomi che sputavo mentre parlavo, avevo problemi di dizione. Sono riuscito ad andare avanti. Ho finito il provino, ho salutato Chiara, che non era soddisfatta, e sono scappato. Ho trovato un bagno solo a casa, dopo mezz'ora di metropolitana e un'ora di treno. Alla fine a quella scuola mi hanno preso. È durata 2 anni. Ho iniziato lì e oggi sono qui. Ho voluto finire nello stesso modo in cui avevamo iniziato, cioè raccontando di un'audizione per entrare in una scuola d'arte. La prima puntata di questo programma, lo scorso 5 di settembre, ha raccontato la storia di Marta, che al limite dell'età aveva fatto l'audizione per entrare al conservatorio ed era stata presa. E così anch'io ho voluto condividere il mio punto di partenza in questo giorno di chiusura. Quello è stato il primo momento della mia vita in cui ho seriamente pensato che un sì o un no avrebbero potuto cambiarla, la mia vita. E non lo so se è così. Cioè, non so se davvero tutte le volte che pensiamo che qualcosa sarà un bivio per noi, poi lo sarà veramente. Forse lo è solo se consideriamo quella l'ultima chance. Se invece ci diamo una seconda possibilità, cioè se dopo un esame o un test, un colloquio o un appuntamento andati male, perseveriamo e non molliamo, allora quel colloquio, quell'esame non saranno uno spartiacque nella nostra vita. Non lo so cosa avrei fatto se non mi avessero preso in quella scuola. Quello che so è che poi lentamente mi sono allontanato da quel mestiere lì e adesso quasi ne faccio un altro. Però è vero che sono partito da là e in qualche modo sono arrivato qua. E poi ogni volta che mi sono trovato davanti ad un bivio in cui aspettavo una risposta, ho sempre cercato di non legare tutta la mia vita all'esito di quella prova. E voi? Come siete arrivati da là a qua? Qual è stata la prova che forse ha deciso della vostra vita, o che l'ha guidata, o che almeno vi ha dato la sensazione di farlo? Oggi ho voluto concludere con una storia mia, ma simile alla storia di un'altra persona con cui avevamo iniziato questo programma, perché secondo me questa somiglianza tra queste due storie, tra questi due avvenimenti nell'oceano di episodi di cui è piena la nostra vita, ecco, questo è il vero successo di questo programma. È il motivo per cui questo programma esiste. Cioè, ed è il fatto che Ogni storia raccontata in questo programma, ogni punto rosso che abbiamo messo sulla mappa, era la storia di tutti. E così, ad esempio, l'ultimo incontro all'ultimo appuntamento raccontato da Simona prima della fine di una storia era il nostro ultimo appuntamento. E allo stesso modo la guarigione di Elisa dopo una malattia era la nostra guarigione, ma anche l'incidente di Eros e la sua rinascita alle Olimpiadi erano il nostro incidente e la nostra rinascita. e la storia di Edith che scappava da un paese in guerra era la nostra storia. Quella di Viola e di Matteo che si incontravano e si innamoravano era la nostra storia. E così quella di Carlo, di Arianna, di Giulio, di Luisa, di Mauro erano tutte nostre storie. Anche se noi non abbiamo vissuto la loro vita, le loro sofferenze, le loro gioie. Eppure allo stesso modo quelle loro gioie, quelle loro sofferenze sono state le nostre. Perché anche se ogni biografia è diversa, fortunatamente le nostre vite sono simili. E sono di solito più interessanti, più importanti e anche più ridicole di quanto pensiamo. Ecco perché forse pochi di voi che adesso stanno ascoltando in questo momento questo programma hanno davvero fatto un'audizione per una scuola d'arte come abbiamo fatto io e Marta. Eppure conoscete quella sensazione. Sapete cosa significa aspettare il proprio turno e poi l'esito di un esame? E in fondo da qualche parte della vostra vita forse l'avete vissuto. In maniera diversa, ma simile. È il 29 di giugno del 2012. Noi ci fermiamo qualche settimana quest'estate per leggere tutti i nuovi racconti arrivati e preparare le puntate che ricominciano a settembre. Intanto per chi è a casa, questa notte c'è un piccolo regalo di fine stagione. È una puntata speciale, come dicevo prima, solo in streaming dal sito della radio, in cui per una volta torno a raccontarvi una storia mia. Anche se il protagonista non sono io, è comunque una storia mia. E per non tradire questo programma, spero diventi anche la vostra. È una notturna, è uno speciale ed è solo sul sito della radio, alle 11, questa notte. Il resto invece sarà per tutto il mese di luglio il meglio di Voi siete qui. E poi, di nuovo, a settembre. Nel frattempo, voi, se non l'avete ancora fatto, prendetevi un po' di tempo, il computer o una penna, e scrivete un episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi. E poi ci sentiamo a settembre. Ciao Matteo, posso sapere circa quante storie ti sono arrivate? Ciao Alberto Cuoco, che credo voglia dire che fa il cuoco. Beh, sono arrivate oltre 1000 storie, giusto Margherita? Oltre 1000... di più di oltre 1000, dalla faccia di Margherita così. Più di oltre 1000. Che non so cosa voglia dire, però. Voi siete qui, @radio24.it. Ciao Matteo, come vedi l'addio di Garanzini? Come lo vedo l'addio di Garanzini? Chi si ricorda, chi ha buona memoria o chi ascolta questi programmi, insomma i programmi che faccio qui da qualche tempo, basta dall'anno scorso in realtà, io dedicai una puntata a Gigi Garanzini, quindi non sto a dire esattamente cosa significa il fatto che non lo vedrò più lì sulla scrivania vicino alla finestra. Però posso ricordare solo una cosa, che mi vanto di avere chiamato un unico programma radiofonico nella mia vita. Un solo programma, perché per mille motivi, perché mi imbarazzo, perché il programma che chiamai fu A Tempo di Sport. Vi parlo di 6 o 7 anni fa, quando credo fosse una domenica senza calcio, e Gigi Garanzini chiedeva di parlare dei vostri numeri 10 preferiti e io lo chiamai quasi in lacrime parlando di Juan Sebastian Verón, e lui, ricordo che proprio perché io gli parlai di Verón come forse del miglior giocatore che abbia mai visto giocare a calcio, lui giustamente mi prese per il culo. Vabbè, colgo l'occasione per salutare Gigi Garanzini da questo microfono dove è stato lui poco tempo fa. Prima di dare la linea alla borsa, voglio ricordarvi un altro appuntamento molto importante che si tiene questo sabato, che è un appuntamento che fa parte del progetto Pagine per il Futuro, che è un ciclo di incontri realizzato da Radio 24 e il Piccolo Teatro di Milano, che si tiene al chiostro di Via Rovello qui a Milano. Questo sabato 30 giugno alle 17, alle 5 del pomeriggio, Alessandra Scaglioni, giornalista di Radio 24, oltre che caporedattrice, incontrerà Cesare Rimini, che è avvocato e editorialista del Corriere della Sera, che parlerà di Tre uomini in barca. Sono degli incontri in cui uomini, persone che del mondo del lavoro, persone importanti, possiamo dirlo, c'è passato anche Tronchetti Provera, mi pare, parlano, raccontano del libro che in qualche modo li ha formati. Vi ricordo che poi tutto questo andrà in onda a luglio su Radio 24, ma è importante invece vedere dal vivo. L'incontro è sabato 30 giugno, cioè questo, alle 17, al chiostro di Via Rovello, al Piccolo Teatro a Milano. Alessandra Scaglioni incontra Cesare Rimini. Grazie per avermi accompagnato anche quest'anno, durante questi mesi di decenza forzata a letto. Grazie per avermi fatto ricordare qualcosa di me attraverso le storie di altri. Forse è proprio così. Le storie alla fine sono sempre le stesse, come la fine di un amore o l'inizio di una nuova vita. Sono solo i protagonisti che cambiano. Grazie Claudio da Cattolica. E io ringrazio io Claudio da Cattolica per aver mandato questa lettera, questa mail, adesso a Voi siete qui, @radio24.it, perché ha spiegato molto meglio di me che cos'è più o meno questo programma. Adesso, prima di chiudere, salutare salutarvi definitivamente, visto che l'appuntamento in realtà è questa sera, rilanciamo, chiudiamo ma rilanciamo, prima del meglio di per tutto il mese di luglio, facciamo, ve l'ho già ripetuto quindi lo saprete alla nausea, però mettetevi davanti a un computer questa sera, ci sarà uno streaming anche video, se proprio è così interessante vedermi che leggo delle cose, alle 23 dal sito di Radio 24, sarà un saluto finale con una piccola storia e questo è solo un assaggio di questa notte. Raggiungo una pizzeria, entro e ordino una margherita da portare via. Non la mangio mai la pizza, al ristorante dell'albergo non la preparano. Il profumo è buonissimo e anche il caldo che esce dal forno non mi dà fastidio. Vado alla cassa, ho in tasca 50 euro. Mio padre dice che bisogna sempre avere un taglio da 50 in tasca, per ogni eventualità, e questa volta ha ragione. Pago 4,50 euro e me ne vado con il cartone bollente. Mentre esco dalla pizzeria mi sento grande. Non so bene dove andare. Guardo il signore che ne ha ordinate 4 prima di me. Lui sale sull'auto e se ne va. Immagino che vada a casa della sua famiglia. Io non posso andare a casa, ma posso trovarmi un posto all'aperto dove mangiare la mia pizza, che mi fa sentire ancora più grande. Quel grande figo che la pizza se la può mangiare sul muretto del porto, direttamente dal cartone, invece che in un piatto sopra un tavolo. Mi siedo su una panchina in cima alla salita che da Cala Gavetta va verso la parte vecchia del paese. Apro il cartone e la mozzarella è scivolata tutta da una parte. Sembra uscita da un incidente stradale. Le do un colpo secco e la raddrizzo. Non ho coltello né forchetta, quindi strappo le fette con le mani. Mi accorgo che non sto pensando ad Ada da un po' e sono sollevato. La pizza è un bel modo per distrarmi. Ora la fame è fortissima e questa è la cosa più buona che io abbia mai mangiato. Questa pizza mi ha reso indipendente per la prima volta in 13 anni. Sono da solo, su una panchina, a mangiare pizza con le mani. Mi viene da ridere mentre tengo uno spicchio a forma di albero di Natale con due mani per non far scivolare via pomodoro e mozzarella. Questa pizza mi sta facendo crescere. Born inside the gates of the family, hardened by a Roman machinery, cast among the building sites, the coiling wires, the shots collected, called out in the wake of a lottery held inside the family gathering, mirrored beams and dog-like stretch, the wandering association murmurs in the dark confessional. Ecco, io vorrei salutare tutti e vorrei rilanciare chiedendovi di mandare racconti, leggendovi semplicemente un pezzo di questo racconto che mi è arrivato. L'ho letto adesso che mi è capitato in mano, è una fotocopia. Ezio Miari è l'autore. Comincio così. Buongiorno Matteo, premetto che non sono un assiduo ascoltatore del tuo programma, l'orario non lo permette, eccetera, eccetera. Acchiappato dal programma, voglio proporvi questa cosa qua. Matteo, valuta tu se opportunamente sistemata può diventare una delle storie per il programma, altrimenti cestinala pure e scusa per il disturbo. Ma veniamo alla mia storia. Me la trovi una basettina, Paolino, al volo? Tempo fa mi si è rotto, dopo 25 anni di onorato servizio, il rubinetto del lavandino della cucina, un greu con doccetta, pagato una cifra negli anni con le lire. L'equivalente greu contemporaneo costava troppo per le nostre finanze. Così ho chiesto a mia moglie cosa le piacerebbe avere. La risposta è stata: non ha importanza, basta che abbia la doccetta. Sono andato in un centro commerciale e ho comprato un rubinetto dal design innovativo. Sai quelli con la molla esterna per il richiamo della doccetta? Ecco, solitamente si trovano solo nelle cucine per comunità. Ecco, l'inizio di questo racconto sembra una baggianata, ma vi assicuro che prima, durante il brano, ne ho letto un pezzo, anche perché lui ha allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, sono 15 pagine di scambio di mail tra lui e le sue colleghe. Vi ricordo che a noi basta una pagina, un racconto che vi racconta in una pagina, e lui dice: ah, dimenticavo, mi chiamo Ezio, ho 49 anni e 1500 giorni, così mi sento più giovane, vivo con tre figli e una moglie dagli occhi verdi nella Brianza lecchese, cordialmente Ezio Miari, consulente. È arrivato il momento davvero di ringraziare Ezio per questa mail e soprattutto di ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato questo programma, tutti quelli che hanno scritto per questo programma, tutti quelli che hanno voglia di continuare a scrivere in questo programma e per questo programma. Quindi voglio ringraziare Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina, Stefano D'Andrea e anche Federico Bernocchi, che adesso non c'è ma è come se fosse qui con noi, anzi in realtà so che in questo momento è qui con noi. Questo programma è stata una raccolta di storie, sarà ancora una raccolta di storie per tutta la prossima stagione, una raccolta che per noi è di fatto una mappa, è come se volessimo fare una specie di censimento, un modo per vedere a che punto siamo, dove siamo, chi siamo e quello che abbiamo fatto e magari anche, chi lo sa, quello che stiamo facendo. È per questo che mi piace immaginare che io in qualche modo sono un punto su una mappa, Tiziano è un punto su una mappa, Margherita è un punto, Stefano è un punto su una mappa, Federico è un punto su una mappa e Paolino Corleoni, a modi diciamo mega punto per tutti i tecnici della radio, è un punto rosso su questa mappa. Quindi io continuo a chiedervi di iscrivervi a questo programma. Voi siete qui, @radio24.it. Sarà un'estate che durerà in realtà un po' meno, perché ci sarà il meglio di per tutto il mese di luglio e poi il mese d'agosto ci sarà in onda un altro programma che si chiama Summertime. Poi noi torniamo a settembre, perché in fondo ognuno di noi è un punto rosso su una mappa e voi siete qui.